Ciao, essere di luce. Oggi evocheremo un angelo guaritore da mettere accanto a una persona ammalata. Mettetevi comodi e pensate ad una persona malata alla quale volete portare il vostro aiuto. Se non avete una persona ammalata verso cui dirigere questa meditazione, pensate a un ospedale che conoscete e scegliete la persona che in questo momento in quell'ospedale è più grave. Fate 3 respiri lenti e profondi. Immaginate la persona che volete aiutare. Immaginatela distesa in un letto tutto bianco, al centro di una stanza. Questa stanza è un po' in penombra. Non c'è nient'altro nella stanza. C'è solo il letto, al centro, con questa persona sdraiata. Questa persona malata ha gli occhi chiusi e riposa. Voi volete aiutare questa persona? Portarle soccorso, sollievo, guarigione e benessere. Voi siete lì, in quella stanza, a circa 2 metri dal letto. Siete lì ad osservare la persona malata. Inviate ora dei pensieri d'amore, cosa molto semplice. Voglio che tu guarisca. Io ti voglio bene. Voglio che tu migliori. Adesso chiedete a un angelo guaritore di arrivare e mettersi accanto alla persona malata. È questione di un attimo e l'angelo è già lì tra voi e la persona malata. Vi volta le spalle. L'angelo raccoglie il vostro desiderio di guarigione. Immaginate il vostro desiderio di guarigione per la persona malata, come fosse un raggio dorato che parte dal vostro cuore e va a toccare le spalle dell'angelo. Quel sottile raggio luminoso è il vostro pensiero, il vostro augurio amorevole verso la persona malata. Toccato dal vostro pensiero amorevole, l'angelo si attiva. Il vostro piccolo raggio luminoso è come se lo accendesse. Attivato dal vostro desiderio amorevole di guarigione, l'angelo risponde e inonda di luce la persona ammalata. L'angelo splende come un faro e riversa una luce viola. La luce viola della guarigione sulla persona ammalata. Tutto il letto, tutta la persona lì, distesa, risplendono nella luce viola che parte dall'angelo. Tutta la stanza risplende della luce viola, che è la luce di Dio, e di verde smeraldo, che è la luce della guarigione. Tutte le cellule della persona ammalata assorbono la luce viola e si equilibrano e guariscono, si modificano, assumono l'impronta del raggio della salute, dell'armonia. Un sottile filo lega voi all'angelo. Questo filo è l'amore verso la persona ammalata. Adesso voi potete anche allontanarvi da quella stanza, ma l'angelo rimarrà là. L'angelo non si allontanerà dalla stanza perché è un angelo guaritore e quello è il suo compito. Fino a quando in voi ci sarà un pensiero amorevole nei confronti della persona ammalata, questo pensiero amorevole toccherà l'angelo e l'angelo risplenderà di luce e di energia risanante. E se nel destino di quella persona non ci fosse la guarigione immediata, la creatura angelica lavorerebbe sulla comprensione, l'accettazione e la liberazione dalla sofferenza. Adesso immaginate di uscire da quella stanza, che rimarrà inondata di luce con l'angelo, che rimarrà lì presente. E fino a quando voi desidererete la guarigione di quella persona, l'angelo porterà e continuerà a portare il suo aiuto. Ora, lentamente, prendete coscienza del vostro corpo fisico, del vostro respiro e riaprite gli occhi. La guarigione è fatta, è fatta, è fatta.